Roma Trastevere, 6 febbraio 1974. Care Eleuterio, la casa che ha visto mia sorellina e me garrule spensierate oggi vede due signore taciturne e pensose. Sono sola e ti scrivo. Mia sorellina è scesa a fare un telegramma a zia Sofia per il suo onomastico. E io penso che il telegramma è una lettera che per viaggiare più in fretta ha pagato il supplemento rapido. Penso anche che sei un cretino, Eleutero. Non puoi metterti contro l'organizzazione zootecnica e agraria così necessaria alla nostra autosufficienza, sempre tua. Roma Parioli, 7 febbraio 1974. Insormontabile sempre mia. La casa che oggi vede due signore taciturne e pensose, immagino che per signore tu intenda te e tua sorellina, è una casa da compiangere per quello che vede. L'organizzazione zootecnica e agraria è un problema del quale ti proibisco di occuparti, soprattutto in casa mia, Eleuterio. Ho scritto, leggo sul giornale che i lavori per la metropolitana sono sospesi per un guasto alla talpa. Che cos'ha tua sorella che non funziona? Roma Trastevere, 8 febbraio 1974. Care Eleuterio, teppi gatto, che significa gatto proveniente dalla teppa cittadina. Mia sorellina si è un po' seccata per la faccenda della talpa. È scesa, ha comprato una spigola, l'ha messa sul tavolo e con una manina l'ha schiacciata, trasformandola in una sogliola. Dice che appena potrà farà la stessa cosa con te per trasformarti in baccalà di quelli secchi. Riprendo a scrivere dopo aver aperto la porta all'uomo che porta l'acqua minerale. Io penso che l'acqua minerale è la parte cattiva dell'acquedotto del Peschiera finita nella camera gas. Penso anche che lotterò con tutte le mie forze per difendere la organizzazione zootecnica e agraria indispensabile alla nostra autosufficienza, sempre tua. Roma Parioli, 9 febbraio 1974. Inamovibile sempre mia. Comincio a sentire la tua mancanza. Non vederti in giro per casa dopo il pietoso tentativo di restauro che tu chiami trucco mi rende triste. Ho provato a colmare il vuoto guardando varie fotografie a colori dei più celebri clowns, ma nessuna di esse è riuscita a farmi sorridere minimamente. Torna, qui succedono cose strane. Da ieri un enorme riccio circola per casa e scodinzola, come se mi conoscesse. Eleuterio. Ho scritto. La portinaia ha svelato il mistero del riccio. Non si tratta di un riccio. È il nostro barboncino. Dice la portinaia che i barboncini vanno lavati con lo shampoo e non con la colla bianca. Ma perché, accidenti, cambi sempre di posta ai contenitori? Roma Parioli, 10 febbraio 1974. Care Eleuterio Micione, sono di nuovo qui, mentre prima ero lì dove sarei rimasta se tu non mi avessi detto di tornare qui. Il barboncino, dopo un bagno caldo e una passata di solvente, è tornato quasi normale, di pelo, d'umore no. Non tanto. Per colazione ti ho preparato piccatine di vitella al limone. E io penso che il limone non è che un'arancia con l'itterizia. Penso anche alla nostra stupida lite. La ricordo perfettamente. Sei entrata in casa e hai cominciato subito a urlare. Roba da matti. Ma si può sapere che cosa succede in questa maledettissima casa? Eleuterio, per favore, discutiamo da persone civili. E dove sta l'altra persona civile con la quale dovrei discutere? Non raccolgo, Eleuterio, sei un cafone. Nel mio studio ci sono 8 piccioni. Non sono 8, sono 12, 6 coppie. Si devono riprodurre. Ma non faranno in tempo, li sterminerò prima. E nella vasca da bagno ho visto strane cose che si muovono. Sei un ignorante, Eleuterio. Chiami strane cose, le trote e le anguille. Anche loro si devono riprodurre. Calma, ragioniamo con calma. Mettimi al corrente. Eleuterio, stiamo attraversando un momento di crisi e è giusto quindi sospendere ogni tipo di importazione e vivere di produzione propria. Il nostro piano di riorganizzazione zootecnica e agraria è perfetto. Abbiamo trote e anguille nella vasca da bagno, capitoni nel bagno di servizio. E se uno ci vuole lavare come fa? Va dalla signora De Rossi qui accanto, con la quale abbiamo firmato un patto di collaborazione. Noi produciamo pesce anche per lei e lei ci fa lavare. Il cervello ti devi far lavare. Per dare non offendere. Lavoriamo per il bene comune. Guarda, guarda la terrazza. Niente ficus, niente rosai, niente bougainville, bensì patate, broccoletti, pomodori, eccetera. Scambiando ortaggi con il fornaio, otterremo la dotazione di pasta sufficiente. Con i conigli che stanno nella tua sala hobby, oltre a nutrirci, per accordi presi col macellaio, avremo una bistecca a settimana. Di sotto l'ombra. No, io voglio il polpettone. Telefona a tua sorella, falla venire qui. Non interrompere, Eleuterio. Le galline che stanno sul terrazzino in cucina produrranno uova che darò a mia sorellina, la quale mi darà in cambio del sale fino che otterrà dal fioraio in cambio del ficus che ho levato dalla terrazza. E se mi autorizzi a piantare nel vaso che hai in studio una pianta di ulivo, avremo anche l'olio necessario. No, nel vaso che hai in studio tu ci devi piantare un cipresso e alcuni crisantemi, così durante la mia gita di fine settimana, quando verrò a trovare te e tua sorellina, pace all'anima vostra, porterò fiori di produzione propria. E se in due ore non torna tutto come era prima, ti faccio vedere come si trasforma una casa in campo di battaglia dopo la battaglia. Eleuterio, stai calmo. Sarò calmissimo, guai a sparare il fucile senza prima mirare con assoluta calma. Eleuterio, porta quel coso. Mobilita l'arca di Noè o ti faccio vedere Eleuterio, come spara questo coso a ripetizione. Li metterò giù quando sarà scarica. Eleuterio, ti prego. Mobilitalo, zoo. Se non vuoi smobilitare, completalo almeno con tua sorella. Stai fermo, Eleuterio, se lo strilla. Ti adoro quando strilli per colpa mia. Se cerchi la linea, hai capito male, torno da mia sorella, aiuto. Ricordo tutto perfettamente, anche le cose cattive che mi hai detto. Ma quando rientrerai, farò finta di niente. Io so perdonare. Ciao. Ciao, Eleuterio. Micio. Mia sorellina è andata via poco fa. Abbiamo studiato insieme il modo più razionale per incrementare la tua vita sportiva e...